Io ho dei ragazzi speciali, ho una società che è speciale e, come ho detto prima, penso anch'io di essere speciale. No, io mi sento normalissimo, io sono il normal one. Il normalone, detta insomma. Il normalone sembra allora, un po'... No, sembro sovrappeso, visto che un po' ci tengo la linea, insomma. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Tutti convocati di Giovanni Capuano. Ok. Allora, adesso sto per farti un gran bel complimento, ed è la verità. Ho tanta paura che dirai qualcosa di orribile. Non essere così pessimista, non è nel tuo stile. È pronto a battere Neymar, un giocatore comunque straordinario, l'ha fatto vedere in questa Confederation su dei tocchi meravigliosi. Fred, Buffon, e poi Dante per il gol dell'1-0. Neymar! E che golazzo di Neymar però! Grande punizione! Marcelo ha recuperato, cerca un pallone interno, Fred lo mette giù, Chiellini e Fred! Gol, possiamo dire, da Balotelli di Fred, ci siamo fatti trovare clamorosamente impreparati. C'è Fred in mezzo, palla all'indietro per Marcelo, Buffon, Fred, 4-2. Doppietta di Fred. Nel secondo tempo abbiamo fatto una grandissima partita. Sul 3-2 avremmo meritato il pareggio, poi ovviamente giochi contro dei grandi giocatori, basta un nulla che ti possono castigare. Io sono molto soddisfatto perché il secondo tempo l'abbiamo fatto da squadra con personalità. La cosa migliore per noi, la nostra crescita dal punto di vista fisico oppure la reazione da grande squadra sotto 3-1? No, la reazione anche dal punto di vista fisico un po' meglio, anche se si fa sempre molta fatica, però ottima reazione, la voglia di attaccare la profondità. E sul 3-2, ripeto, avevamo la partita, potevamo anche pareggiare. Applausi a scena aperta per la nazionale, per l'Italia di Prandelli, oppure anche no. Due vittorie e una sconfitta nel girone della Confederations, 8 gol fatti, 8 gol subiti. Scrive oggi Marco Ansaldo sulla Stampa: dall'epico successo sui terribili giapponesi all'eroica riscossa contro i maestri brasiliani, due partite in buona parte sbagliate sono state descritte quasi con il tono dei filmati luce sulla guerra in Abissinia. È cambiata la percezione che abbiamo della nazionale, rassegnati alla difficoltà di restare grandi, ci si accontenta dello sforzo di provarci. E il titolo è La piccola Italia che scambia le batoste per imprese. Parole che sottoscrivo dalla prima all'ultima e che secondo me aprono un ragionamento anche molto interessante che si può fare su questa esperienza dell'Italia alla Confederations Cup. Tutti convocati per dire che cosa pensate, se vi piace o no quest'Italia che ha perso contro il Brasile, ma giocherà comunque la semifinale contro la Spagna giovedì sera, anche se priva di Mario Balotelli. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms, oppure scriveteci su Twitter @ tutti convocati. Il primo convocato è Luca Calamai, direttamente dal Brasile, caporedattore della Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio Luca, anzi buongiorno per voi. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, piace o no questa nazionale di Prandelli? Sì, direi che più che la nazionale piacciono alcuni giocatori. È chiaro che questa amicizia tra Neymar e Balotelli diventa un veicolo pubblicitario, promozionale troppo facile, no? Da una parte sono i due ragazzi più divertenti, un po' particolari, controcorrente, quindi Balotelli piace, di conseguenza piace l'Italia. Piace da matti Pirlo, cioè Pirlo gode in Brasile di una vera e propria venerazione e quindi di conseguenza piace il progetto, la struttura Italia. Quindi è difficile risponderti a questa domanda, nel senso che è chiaro che qualcuno ha un po' sorriso per i toni con i quali è stata accompagnata questa partita, però al tempo stesso c'è il riconoscimento che ci sono valori importanti. Un altro giocatore che piace, che però non sta andando bene, per esempio, è Buffon. Quindi direi che più che la nazionale piacciono una serie di facce. Ecco, abbiamo letto un passaggio del pezzo oggi di Marco Ansaldo sulla Stampa. Marco Ansaldo che analizza invece quella che è la lettura critica che viene data in Italia di questa nazionale di Cesare Prandelli. Lui dice: siamo oramai rassegnati alle sconfitte, da scambiare magari pezzi di partite fatte un po' meglio, quasi come un'impresa. Scrive tra le righe che Prandelli gode di un'ottima stampa. Ad esempio, se la nazionale di Marcello Lippi fosse tornata in una qualsiasi delle sue manifestazioni con i numeri e le prestazioni di questa nazionale, probabilmente Marcello Lippi sarebbe stato sotterrato di critiche. Che riflessione possiamo fare su questa impostazione? No, io non entro nel merito specifico, faccio un ragionamento, ovviamente Marco è un bravissimo collega, ha il diritto di scrivere quello che vuole. Sì, ma non c'è dubbio, a noi piace il ragionamento. Poi... No, io faccio un percorso diverso. Allora, questo è un torneo che è stato preso, per esempio, dal Brasile, che l'anno prossimo deve vincere il mondiale, perché sennò veramente qui succede... c'erano problemi, per verificare un percorso tecnico, no? Scolari ha preso tutti gli attaccanti che c'ha, li ha messi là davanti, sta cercando di trovare due mediani che si adattino a fare un lavoro sporco, e pensa a un giocatore come Paulinho che lo fa, è già un dato importante, sta cercando di trovare qualche giovane da valutare per l'anno prossimo, tiene caldo Ronaldinho, cioè sta lavorando a un percorso tecnico che lui ha ben chiaro in testa e sta cercando di sviluppare. I risultati del Brasile in questo senso sono, vorrei dire, quasi marginali, perché tra l'altro sai bene che chi vince la Confederation non vince mai il Mondiale, per cui loro lavorano già per l'anno prossimo. E lavorano tra contraddizioni, perché il Brasile sta andando bene ma ha rischiato anche di prendere tanti gol. Ecco, nell'Italia io non vedo questo percorso, cioè non è molto chiaro qual è il punto d'arrivo del prossimo anno. Quindi io devo dire che in questo momento l'Italia ha dimostrato grande orgoglio, grande personalità, la forza morale di un gruppo Juventus che si vede abituato a vincere, un Balotelli che comunque può essere in prospettiva un elemento di spaccatura, ma non si capisce quale poi sarà il mosaico, ecco, di tutto questo. Sì, e questa direi la cosa più negativa. Sì, rispetto all'avvicinamento all'europeo del 2012 sembra essersi un po' perso il filo anche di quella evoluzione tattica che Prandelli aveva annunciato dopo l'esperienza in Polonia e Ucraina, rinunciando anche ad alcuni giocatori e spiegando che il biennio verso il mondiale del 2014 sarebbe stato ricostruito su basi diverse. Mancherà Balotelli? Credo, scusami, prego. Che noi ancora, ma questo vale per Prandelli, ma forse anche per Allegri, valeva per Mancini, valeva per tutti, ancora non abbiamo ben chiaro come bisogna giocare per valorizzare al massimo Balotelli. Che potrebbe essere, Luca, il modo, ad esempio, che ha trovato Allegri nel Milan, anche se l'anno prossimo cambierà. Lo cambia, capito? E questo è il grande enigma, cioè Balotelli è Ibrahimovic, allora gli va fatta pulizia intorno, lui ha bisogno di stare là da solo, quindi ci devi mettere intorno giocatori più mezze punte che poi possono magari buttarsi dentro e sfruttare gli varchi, ha bisogno invece di attaccanti esterni come El Shaarawy e Niang, e allora bisogna cercare gli attaccanti esterni, e Prandelli si è portato Cerci per capire se per esempio poteva funzionare. Siamo in un percorso, siamo, come dicono quelli che parlano bene, work in progress. Sì, anche se poi io, Luca, ritengo pericoloso legare completamente il progetto a Balotelli, non tanto per la qualità di Balotelli, quanto perché se poi a Balotelli viene il raffreddore, o come in questo caso il guaio muscolare al quadricipite, tocchiamo tutti ferro, l'anno prossimo sul finale di stagione dovesse capitare qualcosa, capita che la riserva di Balotelli si chiama Gilardino e significa obiettivamente, credo, riporre gran parte di quello che tu hai costruito. Lo so, però è chiaro che te devi lavorare su quello che può darti un salto di qualità importante, questo oggettivamente può darlo, ecco, Balotelli può darlo. Poi per il resto, cioè, nessuno di noi pensa che la difesa italiana possa prendere tutti i gol che prende adesso, no? Adesso Luca parliamo della difesa. Io ti chiedo un minuto di cortesia, perché ci sono le notizie sul traffico, poi ripartiamo da qui. tutti convocati. Sono in tanti che scrivendo al 349 238 6666 oppure su Twitter @ tutti convocati si chiedono e ci chiedono se per Buffon non sia arrivato il momento di pensare anche a un impegno non continuo da titolare in questa nazionale. C'è chi scrive: Buffon non fa più la differenza come faceva un tempo, chi potrebbe essere il suo erede? E poi ancora Carlo: penso che l'allenatore dovrebbe avere il coraggio di togliere Buffon, anche se non è vecchio, ha fatto il suo tempo. Siamo con Luca Calamai, caporedattore della Gazzetta dello Sport, che è in Brasile, sta seguendo l'avventura della nazionale. Mi sembra, Luca, che siano un po' ingenerosi gli amici che scrivono e hanno questo pensiero, anche se è evidente che nella difesa italiana in queste due settimane si sono visti tanti errori individuali, non solo quelli di Buffon. Un errore proprio di reparto, sì. Errori di reparto, però ora, al di là delle critiche che sono assolutamente ingenerose nei confronti di Buffon, non c'è dubbio che noi italiani abbiamo una crisi ormai endemica per un paio di ruoli, che sono il portiere e i difensori centrali. Ne abbiamo pochi, pochissimi. Se te pensi che il Napoli sta pensando a un portiere brasiliano, la Roma non ha portiere e sta pensando a Giulio Cesar, che è brasiliano pure lui, tra l'altro. Non ne abbiamo, non abbiamo grandi talenti. Il nome più gettonato mi pare quello di Marchetti, che ha fatto un ottimo campionato, ma anche lui ha avuto dei momenti difficili. Così come siamo aggrappati in difesa a Barzagli, che credo, vado a occhio, ma abbia superato abbondantemente la trentina. Abbiamo giocatori abbastanza maturi, non voglio dire vecchi, ma poche alternative alle spalle di valore, mentre invece in prospettiva forse abbiamo qualcosa in più davanti. Quindi il problema c'è, è un problema generazionale probabilmente, è un problema anche di preparazione, di avvicinamento ai giovani al calcio, non c'è più una scuola buona, però è chiaro che Buffon non è più quello che faceva la differenza al 100%, diciamo che la fa al 70% ora. Qualche errorino in questa stagione l'ha fatto anche con la Juventus, non soltanto con la maglia della nazionale. Del resto il tempo passa per tutti. È possibile che con la Spagna Prandelli torni alla difesa 3, un po' perché andò bene con la difesa 3 nella prima delle due partite con la Spagna un anno fa agli europei, un po' perché io penso potrebbe dare sicurezza a tutto il reparto l'idea di tornare proprio al blocco Juventus, cioè quel blocco che in due campionati ha preso più o meno 40 gol, quindi sicuramente ha dato delle assolute garanzie. Ritieni che possa essere una soluzione, o la soluzione può essere magari nel togliere un palleggiatore, mettere un incontrista in più a centrocampo per proteggerla, questa difesa che fa fatica? Guarda, hai detto più o meno la stessa cosa con parole diverse. Cioè, li aspetteremo, quindi che poi li possiamo aspettare con un 3-5-2, un 4-5-1, non lo so, ma li aspettiamo. Perché gli spagnoli vanno aspettati, ci hanno spiegato come bisogna fare, bisogna aspettarli e poi ripartire con quelli che si chiamano ripartenze. Noi, io preferisco contropiede. Dopodiché è chiaro che il confronto è complicato, perché noi siamo una squadra stanca, lo diceva Prandelli nell'intervento che avete proposto e lo dice anche in confidenza ai suoi collaboratori. È una squadra stranamente stanca italiana, perché non è che sì, giochiamo tanto, ma non è che giochiamo 100 volte in più rispetto agli spagnoli, e questo è un dato che ci dovrà far riflettere per l'avvicinamento all'anno prossimo, perché qui c'è un inverno, ma è un inverno finto, perché in realtà tranne due o tre città che troveremo l'anno prossimo, tipo Porto Alegre, qui poi fa caldo, un caldo umido, quindi siamo sostanzialmente nella nostra estate, e quindi arrivare non in buona condizione è un grande problema. Sì, io credo che Prandelli, ne abbiamo parlato venerdì con Vincenzo Pincolini, dovrà cambiare un po' le sue abitudini, tornando all'esperienza dell'europeo in Polonia e Ucraina. Prandelli di fatto li ha giocati con una rosa ristretta di 14-15 giocatori, c'è chi in Polonia e Ucraina ha fatto più o meno il turista. Diceva anche Pincolini, reduce dall'esperienza degli Stati Uniti nel 94, che può essere comparabile per condizioni climatiche, l'importante sarà davvero ritenere di avere 20 giocatori che possano essere spendibili in ogni momento, un turnover ragionato. Credo che da questo punto di vista Prandelli dovrà cambiare proprio la sua impostazione del lavoro. Sì, o comunque trarre esperienza da questa avventura. Perché qui se porti giocatori che non stanno proprio bene, e se non gli dai un po' di recupero rischi di perderli per problemi muscolari. E si è visto, e questo è un buona indicazione, e si è visto anche in questa stagione. Grazie Luca Calamai. Ciao, grazie a voi. Grazie Luca Calamai, caporedattore della Gazzetta dello Sport. Abbiamo fatto il punto sulla lunga vigilia della nazionale in vista della semifinale contro la Spagna, una vigilia che ci terrà impegnati praticamente fino alla giornata di giovedì. Si gioca giovedì sera alle 21 a Fortaleza. 800 24 00 24 per le vostre telefonate. Cominciamo da Franco, dalla provincia di Chieti. Buon pomeriggio Franco. Pronto. Prego. Io penso che quelli che stanno in Brasile, forse causa al caldo, vedono un'altra partita rispetto a quella che vediamo noi. Lei dice giornalisti? No, ma tutti. Prandelli è entusiasta della squadra e ne abbiamo presi quattro. Calamai che dice che la squadra mostra una personalità e ne abbiamo presi quattro. Il gruppo Juventus che ha vinto tutto, ha vinto due campionati. Noi siamo una squadra stanca, logora, con una difesa da reinventare a mio avviso, e sono convinto che Prandelli in questo proprio specifico istante non ci sta capendo niente. Sì, però Franco, mi perdoni, a me sembra che la lettura sulla difesa in realtà sia condivisa, lo diceva anche Luca Calamai. Il problema è che mancano anche i ricambi, perché tolto il blocco della Juventus, quindi Barzagli, Bonucci, Chiellini più Buffon, chi è rimasto fuori? Cioè, chi può rendere meglio di questi? Ranocchia, Stori che sono rimasti in Italia, Ogbonna che anche all'Europeo un anno fa non ha giocato un minuto. Il problema credo sia quello, non tanto che Barzagli magari sia arrivato a questo mese di giugno scarico dal punto di vista fisico e faccia fatica, perché poi fra un anno le motivazioni saranno diverse e può darsi anche che sia diverso il rendimento. Il problema è che mancano proprio i cambi a questi uomini. Cosimo dalla provincia di Taranto, buon pomeriggio. Cosimo? Niente, proviamo Giancarlo da Trieste allora. Giancarlo, buon pomeriggio. Sì, presente, buon pomeriggio a voi. Due cose, la prima, mi meraviglia che Prandelli e il suo staff non riescono a capire che già dalla finale dell'Europeo dell'anno scorso bisogna far ruotare i giocatori. Ne abbiamo 23, mi sembrano tutti quanti validi e dovrebbero essere ruotati già con la partita del Giappone, perché con il Giappone abbiamo visto un'Italia estremamente stanca. Poi l'altro punto che non viene mai toccato, solo Stramaccioni in trasmissione televisiva ha fatto un intervento a questo proposito. De Sciglio è un talento secondo me, e lui al piede destro lo si continua a far giocare a sinistra, e nella partita col Brasile negli ultimi minuti abbiamo visto un indecoroso stop di sinistro sbagliato in pieno e un altro cross di sinistro sbagliato in pieno, considerando che De Sciglio è stato tra i migliori in campo. Mi chiedo perché un giovane non viene facilitato in questo inserimento in una nazionale facendolo giocare a destra nel suo ruolo naturale. Grazie. E perché in questo momento De Sciglio serve a sinistra, e tra parentesi anche nel Milan gioca di tanto in tanto a sinistra. A me comunque De Sciglio contro il Brasile è piaciuto, è una delle note positive di questa nazionale, e credo che Prandelli abbia fatto bene a portarlo a fare questa Confederations togliendolo all'Under 21. È un discorso che abbiamo affrontato più volte settimana scorsa. L'esperienza di queste due settimane servirà molto al terzino del Milan, che tra l'altro, notizia di mercato, al ritorno dal Brasile rinnoverà con Galliani, allungherà fino al 2018 il suo contratto, passerà da 500.000 di euro a circa 1.000.000 di euro, perché su di lui cominciano a mettere gli occhi anche le big del calcio europeo. È un giocatore che sta piacendo. 349-238-6666, qualche messaggio che è arrivato. Pensare che l'Italia ha avuto un'eccellente quanto rinomata scuola di formazione portieri, per quali ragioni c'è questo vuoto di ruolo, scrive Marina da Milano. Tanto capita, sono i cicli della vita. In questo momento siamo in difficoltà in porta e in difesa, qualche anno fa avevamo un vuoto in attacco che piano piano stiamo colmando. E poi da tanti anni, a parte Buffon, noi abbiamo i portieri delle più grandi squadre che spesso sono portieri stranieri, e quindi ai ragazzi che proviamo a crescere manca poi l'esperienza ad altissimo livello. E poi ancora, non sono critiche ingenerose per la carriera di Buffon, semplicemente è stato il più forte, ora non lo è più. Giancarlo da Trieste, buon pomeriggio. No, non c'è, è saltato. Allora, apriamo una parentesi sul tennis, perché oggi è partito il torneo di Wimbledon ed è partito con una brutta notizia per il tennis italiano, la notizia della sconfitta di Sara Errani, che entrava nel tabellone di Wimbledon come testa di serie numero 5, ha perso da Monica Puig 6-3, 6-2, è andata meglio alla Pennetta e a Cari Knapp, che hanno superato il primo turno. Su Wimbledon aveva fatto una chiacchierata Dario Ricci con Corrado Barazzutti, allora sentiamola. Ha il potenziale tecnico per poter vincere di nuovo in questo torneo, però insomma tanto bisogna vedere un attimo i suoi avversari e poi se lui riuscirà, diciamo, ad avere la continuità così nel rendimento che serve appunto per arrivare in fondo a questo torneo, cosa che ultimamente gli manca. Tra le donne, tutte a caccia di una Serena Williams che a Parigi è stata imbattibile sull'erba di Wimbledon, l'ha un po' trasformata anche nel suo giardino di casa, direi favorita numero uno, e quali possono essere invece in questo caso le avversarie? Ma certamente la Sharapova è quella che può puntare a vincere questo torneo, è la giocatrice, direi, dopo la Williams, che gioca meglio, è quella che mantiene un rendimento molto molto alto, tra altre cose molto motivata, Wimbledon ha già vinto, e dunque sicuramente la Sharapova è la giocatrice, insomma, favorita. Ambizioni azzurre, siamo fermi alla semifinale di Pietrangeli del 60, l'erba di Wimbledon ci ha sempre affascinato ma ci ha raramente regalato grandi soddisfazioni, anche quest'anno direi che puntiamo soprattutto sul doppio Errani Vinci. Ma insomma non si può dire, abbiamo dei giocatori che insomma in campo maschile, Seppi e Fognini, hanno sempre giocato molto bene, quindi insomma possono sicuramente fare un grande torneo, poi insomma chiaro che bisogna vedere anche strada facendo, ecco, cosa succede nella loro parte del tabellone, insomma un pochino bisogna anche qualche volta essere un po' aiutati anche dalla fortuna, però ci sono giocatori molto forti a Wimbledon, ma i nostri giocatori in campo maschile possono sicuramente dire la loro. In campo femminile, beh, insomma, abbiamo giocatrici tra le più forti del mondo, è sempre difficile, l'erba proprio non è probabilmente la superficie migliore per le nostre giocatrici, però sono appunto, come dicevo prima, tra le più forti del mondo e insomma non è detto che non possano arrivare a fare un grande risultato. Tutti convocati. Il dibattito su Buffon vi sta appassionando. 349-238-6666. Ha subito solo 19 reti nell'ultimo campionato, ci scrive un amico. E poi Lorenzo da Bergamo. Chi ha un portiere migliore di Buffon, a parte Neuer, la Germania e Casillas? Io non ne vedo. E poi ancora altri che dicono è un portiere che non è in discussione per la sua carriera, ma in questo momento non c'è con la testa e quindi va sostituito. Ancora Piero, a prescindere dai prossimi risultati vedo una squadra di un'altra categoria che è la Spagna, le altre nemmeno si avvicinano. A me personalmente il Brasile non è piaciuto tantissimo, però ha ragione Luca Calamai, ne abbiamo parlato, è un Brasile che sta sperimentando molto e io credo che difficilmente tra un anno al Mondiale, soprattutto nelle partite che contano, mi viene in mente eventuali sfide con l'Argentina, con la Germania, con la stessa Spagna, difficilmente avrà quei quattro giocatori offensivi schierati là davanti così come accade in questa Confederations Cup. E poi ancora a me sembra che sia sempre in campo una nazionale sperimentale, non c'è mai una formazione base ben delineata, in difesa abbiamo buoni giocatori ma mancano dei fuoriclasse, però questo è un problema che in un anno non potremo risolvere. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Partiamo dalla provincia di Pescara. Amedeo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Pronto? Sì, prego. Buon pomeriggio, salve. Senta, no, io volevo contestare prima di tutto Prandelli, il tipo di gioco di Prandelli, ma precedere da questo io non mi spiego l'utilità di utilizzare calciatori che sono stati completamente spompati durante l'anno, come giocatori come Chiellini, come Barzagli, calciatori che poi dovranno riprendere un campionato con la Juventus, e mi chiedo la Juventus come farà con questi calciatori che non avranno nemmeno il tempo di poter fare un minimo di riposo. Ecco, questa è la mia domanda. Mi scusi Amedeo, però io non ho capito chi dovrebbe fare un passo indietro, cioè se dovrebbe rinunciare Prandelli a praticamente 2/3 della sua nazionale, perché secondo me la nazionale così com'è non doveva partecipare a questa competizione. Avrebbero dovuto portare calciatori più freschi, calciatori che non hanno avuto il peso di un campionato così importante come i calciatori della Juve. Io parlo da juventino perché mi sento anche danneggiato quindi per l'anno prossimo come fare, ad esempio l'anno prossimo abbiamo i giovani come Insigne, come Immobile, come Verratti, che portassero questi giovani al mondiale con l'Under 21, Amedeo? Sì, quella che meritano, sì, certo, come no, un po' di coraggio. Anche questo è un punto di vista, non lo fa nessuno perché la Spagna fa questa Confederation e farà il mondiale con il blocco del Barcellona più qualcuno del Real Madrid, la Germania la fa con il blocco del Bayern di Monaco. Chi l'ha detto? Vediamo più che chi l'ha detto, leggo le formazioni della Spagna anche in queste partite, ce n'erano otto del Barcellona. Io capisco il tifo per la Juventus, però insomma, poi che alcune amichevoli delle nazionali debbano essere cancellate, soprattutto quelle che sono semplicemente business, e penso ad alcune tournée del Brasile in giro per il mondo, io sono il primo a sottoscriverlo, perché non si fanno affari con giocatori stipendiati dalle società. Però insomma, per quanto possa non piacere la Confederation Cup, è pur sempre una manifestazione ufficiale, e non parliamo di che cosa capiterà tra un anno. Mi sembra un discorso che abbia poco senso. Massimo da Verona, buon pomeriggio. Sì, prego. Grazie per la convocazione. Prego. Io volevo fare una precisazione. Io mi ricordo che qualche anno fa il problema della nazionale era il contrario. La difesa era fortissima, perché se vi ricordate avevamo un certo signor Fabio che bloccava quasi tutto. Sì, e Cannavaro. Poi Buffon, che era il migliore portiere del mondo. E poi, quasi. E poi c'era Nesta, e poi c'era Materazzi, che era comunque un'ottima riserva. La difesa era blindata. Infatti, se vi ricordate, l'Italia vinceva sempre, secondo me, con pochissimi gol. Faceva un gol, magari non ne prendeva neanche uno. Invece in questo caso, in 3 partite abbiamo fatto 8 gol, quindi l'attacco siamo riusciti a migliorarlo. Purtroppo siamo diminuiti in difesa. Quindi o si trova fuori qualche giovane difensore, tipo anche, come diceva l'ascoltatore precedente, dall'Under 21, oppure magari si fa un po' più di turnover, perché sinceramente è così. Secondo me Buffon non è da mandare in pensione, perché anche in questi ultimi gol alla fine abbiamo visto che più la colpa di Buffon è stata un po' colpa della difesa in generale. Buffon sì, forse in un, si avrà in preso un paio di occasioni, insomma, Buffon non è stato precisissimo, ma lui per primo lo ha ammesso, perché è una persona onesta intellettualmente. Però la verità è che dietro Buffon non c'è un portiere che possa pensare di fare il titolare della nazionale fra un anno in Brasile. Massimo, mi perdoni, non c'è nemmeno un difensore dell'Under 21. L'Under 21 ha affrontato la fase finale dell'Europeo in Israele con giocatori che provenivano dalla nostra Serie B, che sono retrocessi in Lega Pro con il Grosseto. Non lo so, Gianni De Biasi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Io sono d'accordo che ci sia una difficoltà, probabilmente un affaticamento in Barzagli, in Chiellini, anche se in realtà Chiellini ha saltato tante partite per infortunio quest'anno. Però insomma, pensare che fuori da questo gruppo ci sia meglio di quello che Prandelli si è portato, magari Ranocchia se fa una buona stagione, magari Astori, non lo so, cosa ne pensi? Ma sai, innanzitutto c'è da fare una considerazione di fondo, che siamo alla fine di una stagione abbastanza impegnativa, e che adesso secondo me i veri valori dei giocatori non sono quelli che vediamo in questa Confederation. Io credo che il prossimo anno, avendo la possibilità di terminare un po' prima magari la stagione, facendo la preparazione adeguata, credo che avremo condizioni fisiche diverse. Sì, anche se non accadrà, Gianni, perché ad esempio il campionato termina il 18 maggio, un giorno prima di quanto sia terminato quest'anno, il 19 maggio. Ne abbiamo parlato venerdì con Damiano Tommasi, una follia da questo punto di vista. Lo so, difatti la nostra preparazione. È quello che pensavo anch'io, che in corso d'opera comunque si possa fare qualcosa per cercare magari di giocare delle partite di campionato infrasettimanale. Sì, cercare di accorciare. Altrimenti vuol dire essere votati a, a un sacrificio dal punto di vista fisico. Oggi il calcio, se non stai bene fisicamente, puoi essere anche forte finché vuoi, però se non mantieni ritmi importanti per 90 minuti diventa difficile con tante squadre, c'è troppo equilibrio. Poi è chiaro, se giochi contro Tahiti puoi anche andare ai due all'ora, però il problema di fondo è che io credo che una manifestazione come quella che stiamo vivendo adesso e quella della prossima stagione credo che debbano essere affrontate in maniera diversa, anche se poi ci saranno le motivazioni che saranno differenti. Noi abbiamo convocato Gianni De Biasi però perché ci piaceva parlare con lui, che dal dicembre del 2011 è commissario tecnico dell'Albania, di quello che è successo oggi a mezzogiorno in punto all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Das Bayern München, perché il Bayern Monaco haut daran gedacht haben, dass ich hier è una squadra konnte incredibile e io mi sento onorato di essere qui. Auf diesem Grund für mich ist ein Geschenk. Come ho detto, è un ich regalo. Ich möchte mich bei Bayern München sehr bedanken für diese Gelegenheit. E voglio ringraziare il Bayern per questa opportunità. Va e Monaco. Vor allem während ihrer Spiele. Soprattutto und, per i giocatori e la storia. Le prime parole di Pep Guardiola, allenatore del Bayern Monaco, tutte in tedesco, e non solo Gianni le prime parole, perché Guardiola ha retto mezz'ora di conferenza stampa senza nemmeno l'ausilio della cuffia dell'interprete. Io la ritengo una grandissima prestazione e una grandissima dimostrazione di professionalità, anche se è vero che da sei mesi sa che va in Germania, ma insomma no, tedesco e spagnolo non sono parenti. Pep sicuramente è persona di grande spessore, non a caso una volta che ha saputo che il suo futuro si sarebbe vestito di bianco-rosso del Bayern Monaco, direi che ha imparato il tedesco, che è lingua difficilissima, mi dicono, io non la conosco per essere chiari, però sprecca veramente bene. Parla bene, veramente bene. Quanto è importante parlare la lingua dell'ambiente in cui vai a vivere, in cui vai a lavorare, anche dello spogliatoio che dovrai governare? Poi è vero che in quello spogliatoio ci sono giocatori che arrivano da mezza Europa e quindi magari si parlerà più l'inglese del tedesco, però quanto è importante calarsi subito in quella realtà anche dal punto di vista linguistico? E lo chiedo a te, che da un anno e mezzo vivi e lavori in Albania. Io credo che sia fondamentale per la comunicazione, perché per quanto tu possa essere mediato da un ottimo interprete che sappia dire o interpretare nella maniera corretta la tua inclinazione, anche il tuo modo di modulare le parole, credo che se uno parla la lingua del paese dove è chiamato a operare, credo che sia una cosa straordinaria. Io, a differenza di Guardiola, avevo una settimana di tempo per prepararmi il discorso in albanese, vi garantisco che è difficilissimo. L'albanese è lingua molto molto difficile, una mescola tra il turco, il serbo, il croato, le lingue insomma di quel ceppo balcanico lì, e credo che sia veramente difficile in una settimana poter imparare qualcosa. Io mi sono imparato proprio gli auguri di buon anno, visto che eravamo a ridosso dell'inizio del 2012, e quindi l'unica cosa che ho detto in albanese è stato quello. Però la mia fortuna, a differenza di quella probabilmente di Guardiola, è quella di in Albania il 70% delle persone si parla molto italiano, certo. Sì, e l'80% lo capisce, quindi questo secondo me è il vantaggio e anche una delle considerazioni che ho fatto quando ho accettato questo incarico. Sì, poi ci sono considerazioni storiche, sociali dietro a questa vicinanza linguistica del popolo albanese con l'italiano, cose che riportano agli anni 90. Ti chiedo un minuto di pazienza, c'è il traffico, torniamo con Gianni De Biasi. Cazze in Nissage, ovvero non dire gatto, il resto l'abbiamo capito, il resto lo si sa. Tutti convocati. Sono tanti anche i nostalgici dello strunz di trappattoniana memoria, ce lo scrive anche Marco al 349-238-6666. Io ricordo anche un duello tra Mourinho e Ranieri sulla capacità che secondo Mourinho Ranieri non aveva avuto di dire altro se non buongiorno e buonasera in inglese dopo più di un anno al Chelsea. Gianni De Biasi, mi sembra, tornando a Guardiola, che abbia in testa in maniera chiara qual è il progetto del suo Bayern. Oggi ad esempio, insieme a frasi abbastanza scontate come il fatto di non sentire la pressione perché eredita una squadra che ha vinto tutto con Heynckes e quindi difficilmente potrà migliorarsi, ha lasciato ad esempio capire che Gomez è in partenza, ha detto in questo momento è ancora un giocatore del Bayern e lo tratterò come tale, ma ad esempio io trovo molto coraggioso rinunciare a uno come Gomez, che è pur sempre un giocatore che ha dimostrato di fare la differenza in Germania ma anche in Europa. Che cosa ti aspetti dal Bayern di Guardiola? Secondo me le dichiarazioni che poi ho letto in questi giorni di Guardiola sembra che entri in punta di piedi in una realtà che ha vinto tantissimo come il Bayern quest'anno, e quindi grande rispetto della rosa che ha a disposizione, e lui difatti non farà rivoluzioni per quelle che sono almeno le dichiarazioni ufficiali, e poi credo che porterà qualcosina in una squadra che però ha già valori tecnici straordinari, squadra che ha vinto tutto in Europa, in Germania, e quindi da questo punto di vista qui lui può solo mettere a posto le rifiniture di questa squadra, può apportare qualche accorgimento diverso, però credo che questa sia già una squadra che fa un calcio di grandissimo livello, con giocatori ottimi da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico, e credo che lui porterà un po' la sua filosofia di gioco, il possesso di palla e gli aspetti di spettacolarizzazione del calcio come li ha fatti a Barcellona. Sì, squadra destinata comunque ad avere un ruolo di primissimo piano anche l'anno prossimo in Europa, ovviamente non si parla nemmeno della Bundesliga che quest'anno è stata vinta con 20 e più punti di vantaggio, l'anno prossimo ci sarà il Borussia Dortmund e vedremo che Borussia Dortmund sarà. Ho l'impressione che Guardiola sia stato bravo a capire con qualche mese d'anticipo qual era il vento che soffiava in Europa. Il calcio tedesco è un calcio che è destinato a comandare nei prossimi anni, il Bayern Monaco è il modello di riferimento all'interno del calcio tedesco e quindi è certamente il club che avrà un ruolo molto importante. Penso e ti chiedo conferma e conforto, due spanne sopra non soltanto il calcio italiano, qui veniamo ad esempio alle difficoltà della Juventus, anche oggi notizie di mercato, l'interessamento ad esempio di altri club per Tevez, questa difficile rincorsa a un top player che però è il tassello fondamentale forse per fare un salto di qualità in Europa. Ma diciamo innanzitutto che il Bayern Monaco è una squadra che è guidata da ex calciatori di grandissimo spessore, uno tra tutti Rummenigge, per non parlare di Mattias Sammer, il grande capitano della nazionale tedesca, il difensore centrale, non mi viene in mente, il libero classico, Kaiser Beckenbauer. Io credo che questi siano veramente l'esempio che il calcio, quando in mano a persone competenti che conoscono la materia, probabilmente riescono a fare le cose nella maniera giusta. Spesso e volentieri le società di calcio non è che sono gestite da uomini di calcio, ma da gente che si è improvvisata nel mondo del calcio, e perché magari è lì per altre ragioni. Credo che il primo passo, il primo presupposto sia di ridare in mano il calcio alla gente del calcio che è competente in materia, e poi le risorse finanziarie di questo club che fanno il resto, grandissime, e lì loro le sanno anche gestire in una maniera, e certamente sono importanti. Ci lasci con la frase in albanese, quella che è la prima che hai imparato, che per Arbitineri era buon anno, che vuol dire buon anno. Grazie a Gianni De Biasi. Grazie a voi, un saluto, ciao. Grazie a Gianni De Biasi. 800 24 00 24. Luca da Bari, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, prego. Senta, io mi volevo collegare proprio al Bayern, al mercato della Juventus. Sì. Mi chiedevo come mai non lasciano perdere Jovetic e non puntano pure loro su Gomez, come farebbe la Fiorentina sul dopo Jovetic. Gomez è un giocatore che ha fatto le scarpe a Klose in nazionale e anche al Bayern. Sì, ed è un giocatore che ha un profilo internazionale importante. Io sono abbastanza d'accordo, però poi ci sono anche le indicazioni di Conte, e le indicazioni di Conte portano a un giocatore come Jovetic, che evidentemente è esattamente il profilo che Conte ha in mente per rifare insieme agli Oriente, perché non dimentichiamo che c'è già una prima punta che è gli Oriente, l'attacco della Juventus del prossimo anno, però evidentemente Gomez, se poi davvero è disponibile ai prezzi che si sono letti, quindi intorno ai 15 milioni di euro, è un giocatore su cui secondo me in tanti club farebbero benissimo a puntare. Però ragioniamo anche sul fatto che la Fiorentina negli ultimi mesi si è dimostrata capace di arrivare prima su certe scelte di mercato. Lo ha fatto l'anno scorso ad esempio con un giocatore come Borja Valero, hanno scritto i giornali in Spagna, c'è la Fiorentina su David Villa ad esempio, che è un giocatore in uscita dal Barcellona, e quindi su questo sono molto bravi i dirigenti della Fiorentina. Roberto da Vercelli, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego. Sentivo prima il discorso che avete fatto un ascoltatore sui giocatori della Juve in particolare, sì, perché è il Juventino che non devono partecipare, sì, alle manifestazioni. Ma come diceva lei, già intervenuto prima, ha detto quasi mandiamo quelli dell'Under 21, ma penso non basti, perché a un certo punto andranno a pescare gli Under 17 o che ne so, la primavera. Sì. E se lasciamo a casa tutti i giocatori buoni che abbiamo, poi Confederation Cup alla fine era programmata una manifestazione che penso che se dovessimo vincere la semifinale e andare in finale, ci saranno poi i soliti cortei in giro per l'Italia, magari anche il radioascoltatore di prima magari va a farsi qualche giro con le bandiere, cioè. Sì, guardi Roberto, io le cito una cosa che non riguarda un giocatore italiano, Lionel Messi, che ha finito la stagione sulle ginocchia, di fatto è stato irrilevante in tutta la parte finale della stagione con il Barcellona e anche con la nazionale argentina, perché era infortunato, perché era stanco, spremuto come un limone. Ebbene, Lionel Messi in 15 giorni, in queste ore, sta di fatto percorrendo mezzo giro del mondo per rispondere alle chiamate dei suoi sponsor, per giocare 5 partite esibizioni, partite amichevoli, lautamente pagate, sono 40.000 chilometri. Ovviamente Messi continua a essere pagato dal Barcellona anche in queste settimane che dovrebbero essere di riposo. Ecco, quando fra qualche mese parleremo dei calendari folli, che pure ci sono e sono un problema, quando parleremo dell'ingordigia di alcuni club per cercare soldi in giro per il mondo, ricordiamoci anche di che cosa sta facendo Messi in queste settimane, perché alla fine io solidarizzo col Barcellona, che ha tutte le ragioni di questo mondo, ad esempio a luglio e ad agosto, a portarsi i suoi campioni in giro per 3 continenti, per tournée che valgono dei soldi, però il Barcellona li paga anche questi campioni. Giancarlo da Roma, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego. Senta, no, io mi riferivo a Buffon, no? Ma io dico, il portiere quando comincia ad avere una certa età non blocca più il pallone, non c'ha più la forza nelle mani per bloccare il pallone. E dico, ma i difensori che gli stanno vicino sono quelli della Juventus, almeno gli andassero vicino e buttassero la palla fuori, perché lui non blocca più il pallone, non è che gli manca la posizione, gli manca che non ha più la forza nelle mani per bloccare il pallone, ci avrà la posizione, l'esperienza, ma non c'ha più questa forza. A me sembra, Giancarlo, che Buffon abbia fatto semplicemente un paio di errori tecnici in questa avventura alla Confederation. Grazie comunque, noi siamo arrivati in fondo. Carlo Genta torna, l'abbiamo messo un attimo ai box, ma torna, e con questo rispondo a tanti messaggi che stanno arrivando. Ringrazio Franco Piantanida, autore di questa puntata, Robby Scaltritti in regia, un saluto anche da Giovanni Capuano. L'appuntamento con tutti i convocati è per domani alle 14:00.